ma non sono efficiente. Penso stipato al mucchio, penso a un unico cruccio, un cruccio poco efficiente, un cruccio diciamo demente. Un ritorno alla barbarie avrebbe un certo valore.